Ed eccoci con il secondo appuntamento della rubrica di eventi di The Festivals Backpack, che è iniziato per questa stagione di Radio Città Fujiko la settimana scorsa, di lunedì, e sarà insomma quello che vi farà un po' compagnia per tutta la stagione, per raccontarvi quali sono gli eventi che nelle varie settimane si avvicenderanno a Bologna e potranno un po' riempire insomma le vostre serate, le vostre giornate, i vostri weekend. Quest'anno, come avete notato, ci siamo infiltrati all'interno di Ukulele per raccontarvi un po' cosa succede a Bologna ogni settimana. Questa settimana è ricchissima perché ormai siamo entrati proprio nel pieno dell'autunno, tutti i locali c'hanno della musica in continuazione proprio, e noi vi diciamo un po' un riassuntino di quello che succede nella settimana tra il 3 e il 9 ottobre, quindi da oggi fino a domenica. Vi ricordiamo che questo piccolo riassunto che stiamo facendo all'interno appunto della diretta in realtà è fruibile in maniera più estesa sia sul nostro sito, che è festivalsbackpack.it, sia su radiocittafujiko.it. Come sempre il lunedì pubblicheremo appunto questa rubrica estesa in cui raccoglieremo giornata per giornata tutti gli eventi. Cominciamo con questa sera, perché ci sono vari eventi, ma ve ne segnaliamo uno che è in Piazza Verdi, quindi ancora all'aperto, con Marco Vincis Grassi. Che i Vincis Grassi sono tipo delle lasagne marchigiane. Non so se i marchigiani saranno contenti di beh, questa dai, cosa. Rachele, perdonaci se abbiamo detto una cosa che ti fa... È più di Macerata comunque i Vincis Grassi, non so se Rachele si offende. Ma non c'è solo questo appuntamento, ce ne sono tanti. Stasera infatti anche Montagnola Republic ha un appuntamento alle 21 con One Drop Fellas e Mad Mike, ma per il resto vi invitiamo appunto a scoprire cosa succede sulla nostra rubrica e passiamo direttamente a martedì 4 ottobre. Martedì 4 ottobre, se avete voglia di un concerto, in piazza Lucio Dalla c'è il Dimondi Festival con Zois alle 21, all'Unipol Arena Sfera e Basta e al Locomotive Club invece sempre alle 21 Mobrici. Avete voglia di cantare voi? C'è anche il mercato suonato con il karaoke, quindi non lo so, io lo terrei comunque a mente. Assolutamente sì. Passiamo poi a mercoledì, perché tornano gli appuntamenti con Classica da Mercato al mercato suonato, per esempio. E inizia anche il Robot 13, che va avanti fino a sabato. Esatto, per scoprire di più questo appuntamento potete comunque seguire Radio Città Fujiko, dove sarà raccontato in maniera più approfondita, o anche il nostro sito, dove vi racconteremo appunto tutti gli appuntamenti del Robot 13 di questa nuova edizione. A questo punto arriviamo a giovedì, dove c'è un appuntamento al TPO che è molto importante, insomma un gruppo che noi vi consigliamo quantomeno, sono i Mad Honey. Poi c'è un appuntamento molto importante a cui teniamo, che è la riapertura del binario 69, con questa serie di eventi che cominciano giovedì 6 e vanno avanti per il weekend, come se fosse la prima volta. Giovedì ci saranno gli Zambramora più Tamada e poi durante il weekend scoprirete ci sono un sacco di altre cose. A questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi vi racconteremo invece cosa aspettarvi nel weekend. E allora ci ascoltiamo Mobrici e poi passiamo a venerdì 7 ottobre, ricchissimo di cose. Siamo arrivati al weekend. Il weekend ricomincia a essere molto denso di eventi. Dopo un agosto-settembre, dove effettivamente gli eventi erano un po' calati, si ricomincia invece a bomba, quindi è impossibile, letteralmente impossibile, che non troviate un evento che soddisfa le vostre necessità. Venerdì 7 ottobre, dicevamo, al Covo Club, ad esempio, c'è Her Skin Live con un release party di I Started a Garden e Ita Love Party a seguire, questo alle 21. Oppure, per esempio, continua la festa al binario 69, come se fosse la prima volta, con I Sordi più Galea DJ Set. Oppure, al Freak Out Club, ci sono i Magma Haze, Tangerine Stone, i Waste Cult. Ci sono concertoni bellissimi anche al Gallery 16, per esempio, con i Derricks, Extravaganza, Frabbo e Savio. Oppure al Locomotive Club c'è Last for Youth alle 21.30, ma questa è solo una piccola parte di quello che succede venerdì 7 ottobre. Passiamo però a sabato, che è forse ancora più ricco. Esatto, metti che venerdì siete un po' stanchi dalla settimana, avete voglia di stare a casa, bene, conservate le energie perché per sabato 8 ottobre ci sono effettivamente moltissime possibilità. Noi ve ne diciamo un paio, ad esempio all'Alchemica Music Club c'è Maui Waui, non so se si pronuncia proprio così, è molto divertente, volume 4 alle 19, ma all'Unipol Arena, se volete, se avete un po' la nostra età, avete voglia di sentirvi giovani di nuovo, tipo no, andare proprio a fare le robe da adolescenti, ci sono i Sum 41 alle 21, una robina che io non dimenticherei, insomma. Se invece avete più voglia di reggae, volete immaginarvi in Giamaica, non so, in una situazione un po' più calda di quella che stiamo trovando questi giorni, a Piazza Lucio Dalla alle 21 c'è Radio Reggae. E questo è una piccolissima parte di tutto quello che succede sabato 8 ottobre, perché ad esempio alla Casa del Gufo ci sono i Petrobras in concerto, che è una roba molto figa. All'Escargon Club c'è We Love 2000 alle 23, quindi festona. Succede un pochino di tutto, ma arriviamo a domenica 9 ottobre per chiudere la settimana, perché a Piazza Lucio Dalla, sempre per il Di Mondi, ci sono Furio e gli Scagei, quindi da ballare. Al Circolo Dev ci sono i Crossed Sunday Blair più Fractor più Cage, roba un po' più da pogare forse. Al Museo Internazionale Biblioteca della Musica c'è 900 Good Vibrations, canzoni da museo con Roberta Giallo. Al Freak Out c'è Hans Joachim Rodelius. Tra l'altro la cosa della domenica che mi piace molto è che gli appuntamenti iniziano, ad esempio quello che hai detto, al Circolo Deva alle 15.30, quindi un mezzo pomeriggio diciamo, e al Museo Internazionale della Musica alle 17.30, quindi uno volendo può anche uscire, farsi due ventini insomma. E poi andare la sera a Piazza Lucio Dalla. Esatto, quindi noi vi lasciamo scegliere autonomamente che cosa volete fare. Vi ricordiamo che questa rubrica sarà con voi tutti i lunedì, che sul sito di Radio Città Fujiko e di Festivals Backpack potete invece scoprire e tenervi in tasca direttamente la rubrica, la guida con tutti gli eventi che ci saranno a Bologna. Noi vi rilasciamo nelle mani e alle voci di Adele e Rachele e vi auguriamo una buonissima settimana e vi salutiamo con Fat Lip dei Sum 41 per tornare un po' adolescenti.